lo so che pensi che sia matto, che non apprezzo fino in fondo tutto ciò che ho. E forse è vero, ma non sono mica soddisfatto. Anzi, scusa amore, io resto alzato ancora un po'. Ho cominciato a 16 anni a non dormire molto e usare il tempo fino all'ultimo secondo che si può. Perfino adesso che al risveglio pago sempre il conto, ancora mi racconto che prima o poi riposerò. Qualcosa che scorre in sangue, l'arsenale lirico dei sogni, ma la notte paga in contanti, il giorno si estingue, è acqua che scorre, è solo acqua che scorre. È tutto quello che succede quando il mondo è spento, è forse l'unico segreto che conserverò per me, come la luce artificiale che mi porto dentro per congelare il tempo quando di tempo non ce n'è. Ecco perché quando mi guardi non ci sono, io sto dormendo e giuro sogno, anche se parlo con te. Nella tua stanza il silenzio è di velluto. Io mi addormento, amore, e sogno anche per te. È qualcosa che scorre nel sangue, l'arsenale liquido dei sogni, ma la notte paga in contanti, il giorno si estingue. È solo acqua che scorre, è acqua che scorre. Se collassa questo cielo che ci veste per la festa di una strega di paese e di un cavaliere osceno, è solo esta nota.